Fabrizio da Firenze, buongiorno. Buongiorno e complimenti alla trasmissione. Grazie. Volevo un chiarimento, secondo me è molto importante, ossia nelle obbligazioni societarie che vengono emesse ci sono delle obbligazioni che hanno un mercato e vengono quotate sul MOT e si possono comprare e vendere come un BTP. Sì. Ci sono delle obbligazioni invece che non hanno, diciamo, questo tipo di privilegio. Le chiedo agli esperti, le obbligazioni societarie che vengono quotate sul MOT e che quindi hanno un mercato danno più cautela da un punto di vista di insolvenza rispetto alle altre? Bellissima. Grazie. Domanda, Fabrizio, la ringrazio. Allora ricomincio con Luca Bagato. Nicola Francia non se la prenderà, poi magari se vuole faccio intervenire anche lui su questo. E allora ha ragione Fabrizio, del dubbio che esprime, ma insomma anche una questione di liquidità. Quelle obbligazioni che le società emettono e che non transitano sul mercato disponibile a tutti, dottor Bagato, è perché sono, non lo so, meno trasparenti, c'è un problema di liquidità che però forse non rientra nell'ottica, diciamo, della perplessità trasmessa da Fabrizio. L'investitore dice una cosa giustissima. Diciamo che non c'è un fine vero e proprio di mancata trasparenza. Diciamo che come risultato sicuramente è meglio per un investitore privato muoversi dove la liquidità è evidente, quindi la trasparenza di un'obbligazione così come quella di un'azione è evidente. Nessuno di noi andrebbe più a comprare un'azione non quotata in questo momento, difficilmente trovo investitori che hanno ancora azioni non quotate nel proprio portafoglio, e invece cerchiamo a volte delle occasioni quando comprare delle obbligazioni non quotate. Come investitore privato è un grave errore, quindi la liquidità di un titolo, il fatto di poterlo seguire giornalmente, addirittura nel caso del MOT parliamo di avere un prezzo costantemente, dall'apertura fino alla chiusura, una giornata intera, come una volta avevano appunto i trader professionisti per quanto riguardava le obbligazioni societarie. Ci sono società che emettono ancora obbligazioni che non transitano sul circuito del MOT perché comunque il circuito internazionale delle obbligazioni societarie non è al momento trasparente.